Pirati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Adesso Juan Fran al dentro per Mandžukić e arriva Arda Turan a portare in vantaggio l'Atletico Madrid. Forse nemmeno la voleva colpire in quel modo, la tocca quanto basta per fare 1-0 immediatamente. L'Atletico Madrid avanti. Io credo che il primo tempo la squadra, praticamente l'Atletico l'abbiamo subita, perché credo che l'Atletico sia entrata nella nostra metà campo due volte. Loro è una squadra che se ne sbattono, loro stanno lì e aspettano, non ne frega assolutamente niente. La difficoltà qual è? Quella di trovare spazio tra le linee e loro non te lo concedano. È quello che vogliono per cercare di rubarti palla e ripartire. Quindi devi cercare di giocare il più velocemente possibile e trovare lo spazio. Con una giocata sicuramente difficile. Il secondo tempo abbiamo avuto 3 o 4 situazioni un pochino più a campo aperto, abbiamo sbagliato tecnicamente in quelle situazioni lì che potevano diventare pericolose, e erano le uniche situazioni dove l'Atletico era stato preso un po' scoperto, altrimenti l'Atletico non lo scopre neanche se fa caso. Qualche recriminazione la puoi avere, però penso anche che di fronte avevamo una squadra che, seppur sia una delle realtà insomma migliori del calcio europeo, è sempre una squadra che di solito gioca partite di rimessa e fa della compattezza la sua arma migliore, no? Per cui in una serata come stasera, nella quale dovevano spingere per vincere, probabilmente anche loro qualche difficoltà in più l'hanno avuta. Atletico non lo scopre neanche se fa caldo, come dice Allegri, non è male. Resta da capire, non so se Pardo ha un'idea, perché ci siamo buttati sulle sonorità anni 80 per la Juventus, probabilmente per il titolo della canzone Everything's Gone Green, per la maglia verde, verde evidenziatore della Juventus, credo sia per questo. New Order, Beh, io penso di sì, che la citazione è perfetta. La maglia è orrenda, è terrificante. Non è orrenda, è Anas, cioè, il problema non è particolarmente orrenda, secondo me. È il problema di tutte le terze maglie. Vabbè, io ho visto anche terze maglie civili. Questa un po' Anas non mi piace. Pettorina, sì, per quando ti fermi in autostrada, non mi piace. No, vabbè, ma questo c'è l'Inter, non so se te lo giocherà con quella identica di colore azzurro, praticamente identica, stesso concetto, un po' da evidenziatore, e non so, è da evidenziatore. Però insomma le terze maglie hanno dei problemi, dai, strutturali. Hanno dei problemi. Le terze maglie hanno dei problemi, sì, li abbiamo anche noi, certamente, ma ce li ha anche la Juventus. Portano sfiga, perché la Juve ha giocato una buona partita. Io non sono d'accordo, te lo dico sinceramente, non sono d'accordo con certi eccessi di critica. Per me la Juve ieri ha giocato bene, ha fatto una partita molto simile, diversa ma simile per qualità alla partita che ha fatto la Juve. Ma non credi che abbia buttato un'occasione invece? Ma sicuro, perché ha perso. Ah, ecco. Questo è evidente. Così come se avesse perso la Roma in quel forcing finale di pochi minuti alla fine del City, sicuramente ci sarebbe stato da rammaricarsi. Però secondo me le due prestazioni sono tutte e due molto buone. La Roma ci ha messo in più, secondo me, un certo livello di spettacolo, che però secondo me è anche strettamente correlato alle caratteristiche dell'avversario, perché certo, il City comunque qualcosa ti concede sempre e la Atletico Madrid no. Sì. Detto questo, per me sono state due ottime prestazioni. La Roma ha portato a casa un grande risultato, la Juve no. Il risultato non è mai un dettaglio del calcio, per no, ma poi questo girone è un casino. Hai visto il Malmo che ha battuto 2-0 l'Olympiacos in qualche modo, ma questi sono sillogismi, rivalutando la prestazione della Juventus. certo, o dicendo certo altre cose sulla sconfitta dell'Atletico Madrid in Grecia, o magari dicendo che proprio la Juventus con un Atletico Madrid che non ha fatto una grande impressione, tutt'altro, forse con un po' più di coraggio avrebbe potuto chiudere questo girone e blindare almeno ipoteticamente il terzo posto. Dunque, siamo d'accordo sul fatto che vai a Madrid sul campo dei vice campioni d'Europa, te la giochi alla pari, una partita molto fisica, brutta peraltro, in cui non succede niente, la perdi 1-0, tutto sommato dici dal basso della nostra depressione poteva andare peggio, però se vogliamo provare ad essere un po' più ottimisti come abbiamo fatto in questi giorni, beh, allora io un po' di delusione me la porto dietro dopo la partita della Juve. Convocati. La sensazione che si è avuta è che la Juventus inconsciamente o consciamente abbia giocato più per il pareggio che per vincere la partita. Ci sono stati pochissimi tiri in porta, è stata una partita sotto questo aspetto non brillante, però loro qualche tiro l'hanno dato almeno. Ma arrivo, io e te non ci troviamo mai d'accordo, non capisco, o te guardi un'altra partita o la vedo un'altra io. Credo che abbiamo due concetti di calcio completamente diversi, perché credo che tu ami molto di più l'Atletico Madrid per come gioca e magari un po' meno le squadre che, no, no, che hanno tentato che, come stasera. No, no, a me non piace l'Atletico Madrid e come gioca. Dico che hanno in fase di non possesso, questo, è ben organizzata. Non lo so. Credo che la squadra noi abbiamo cercato di vincere, non era semplice, abbiamo cercato attraverso la gestione della palla andare a limitare quelle che sono quello che è la forza dell'Atletico Madrid, che gioca affollate, fa delle mischie, alza sempre la palla. E non fa due passaggi di seguito, credo che questa sia una cosa molto evidente. L'idea ha due problemi: il primo che non sempre riesce ad avere una motivazione altissima, il secondo problema è che Carlo non ha ancora trovato la quadra. L'anno scorso, dopo tanta fatica, era riuscito a farli muovere in un certo modo, oggi si trova che sta cercando una soluzione. Carlo è un mago in questo, parlare di squadra con il Real Madrid non sempre è corretto, è un gruppo di grandissimi giocatori che non sempre sono una squadra. Carlo è un mago anche perché ha avuto buoni maestri, mi viene... Non è quello, se Allegri sentisse quello che dico a Carlo sarebbe sollevato, io credo anche di dover essere sempre onesto. Allora, questo è quello che è successo, ci saranno contenti alcuni ascoltatori che ci domandavano appunto conto quello che è successo ieri sera nel dopopartita tra Arrigo Sacchi e Massimiliano Allegri. Mi è sembrato un dibattito interessante, civile, stavolta non si è parlato di barchini, gommoni e cose del genere. Mi sembra però che stavolta Arrigo non abbia tutti i torti. Filippo Maria Ricci è arrivato anche lui, eccolo qui. Ciao, buon pomeriggio. Parte sempre lì con noi. Allora, secondo voi Arrigo ha ragione o no, Filippo e poi Pier? Filippo. Sì, secondo me Arrigo ha ragione. Voglio dire, se non fai tiri in porta è difficile che vinci. La Juventus ha fatto 3 tiri, tutti sballati o sbilenchi. L'occasione migliore è stata il quasi autogol di Raul García e ha rinunciato. Cioè, questa è una partita che la Juventus poteva affrontare in maniera in due maniere. L'Atletico aveva un solo centrocampista difensivo, Thiago. La Juventus si presentava con Pogba, Vidal e Marchisio. Poteva creare una superiorità, poteva approfittare, e due punte molto forti. L'Atletico non era... sì, aveva vinto molto bene, ne avevamo parlato, 4-0 col Siviglia facendo un partitone, però era la prima grande partita, cioè c'erano ancora delle incognite, dei dubbi. La Juventus è entrata in campo così, un po' sperando nel colpaccio, sì. Un atteggiamento per me non dissimile da quello che io avevo visto a Bilbao col Napoli. Si poteva mettere un po' di paura all'Atletico Madrid, ah, cosa sì, che la Juventus provarci. Non... Provarci. Però... provarci. Pardo, dimmi. Ma io... sono tutto d'accordo. Cioè, è evidente, partendo in maniera letterale, quello che dice Sacchi non è assolutamente sbagliato. Cioè, la sensazione che soprattutto a un certo momento della gara la Juve abbia pensato che un pareggio contro i vice campioni d'Europa potesse essere un buon risultato fuori casa, questo sicuramente è un concetto che c'è stato. Detto questo, io valuto la prestazione e sfido chiunque a dire che la Juve non se la sia giocata alla pari con i vice campioni d'Europa fuori casa. Sì, ma non aveva la possibilità di giocarsela meglio, è questo che stiamo dicendo. Dire, questa cosa, anche quello che ha detto Sacchi, ha dentro di sé, conserva dentro di sé un implicito, clamoroso complimento alla qualità della Juve. Cioè? Nel senso che nel momento nel quale Sacchi dice la Juve poteva e doveva fare di più, sta dicendo che la Juve poteva vincere in casa dei vice campioni d'Europa. Sì. E io ma non l'ha fatto però. Ma non ci ha neanche provato. Cioè, tutto sommato è una squadra che è una squadra che è partita. Come? Non ha neanche mai sofferto, insomma. Ho capito. Non ha sofferto, voglio dire, però secondo me ci sono stati dei momenti invece sì, di sofferenza, perché poi dopo la cosa qual è? Che la Juventus ha vinto il possesso, quindi questo è abbastanza indicativo, nel senso che cioè, teneva la palla ma non si è mai avvicinata alla porta avversaria, allora cosa la tiene a fare la palla? Non so come dire. L'Atletico ci ha provato, ha avuto le sue, poi a un certo punto soprattutto Simeone ha visto che non funzionava, ha cambiato la squadra, ha cambiato il sistema. Certo. Cioè, ma banalmente, Phil, banalmente a me l'Atletico sembra comunque una squadra in vaga difficoltà, una squadra che comunque sta cercando sì. di ricostruirsi. E allora, esatto, se, allora, non c'è periodo costa, oh. Allora, sei la Juventus, sei in un grande momento, hai la possibilità di indirizzare il tuo girone e magari di far fuori gli avversari più pericolosi anche questo, in una prospettiva cioè, futura. Se la Juventus ieri vinceva, andava a 6 punti, l'Atletico rimaneva a 0 e non ti dico che era fatto fuori, però insomma il primo posto se l'avevi praticamente assicurato, che sì. sappiamo bene che per gli ottavi è fondamentale. Sì, sì. E secondo, potevi eliminare un avversario pericolosissimo. Non è che tu dici, sai, ah, questo è l'Atletico, ti ha messo sotto, ti ha schiacciato completamente, allora ti dici, vabbè, abbiamo pensato che il pareggio poteva andare bene. Mm. No. Cioè, l'esempio è venuto, secondo me, viene la sera prima, dalla Roma. La Roma all'Etihad ha fatto la sua partita. Sì. Avversaria diversa. D'accordo. Comunque, sempre campione d'Inghilterra sono, non è che provo. Però avversaria diversa, geneticamente diversa, sì, voglio dire. La Roma. Aspetta, sentiamo parlare. Sì, no, la Roma ha fatto una buonissima partita, sicuramente più brillante, ma la partita è stata complessivamente più brillante, più aperta e più divertente. Quella di ieri è stata più bloccata, ma dal punto di vista... Sì, è una partitaccia. Appunto, dal punto di vista però del rapporto di forze fra le due squadre, a me la Juve ieri non è dispiaciuta. Poi sono d'accordo, certo, è chiaro che era meglio pareggiare, era ancora meglio vincere, e alla fine il risultato è negativo. Io è più una questione di atteggiamento, attenzione, poi io dico scusate, ma anche l'Atletico, allora anche l'Atletico che giocava però ci ha provato un minimo. L'Atletico si sa che così c'è una squadra che segna quasi solo su calcio piazzato, però ieri un minimo c'è stato uno sforzo da parte delle, cioè, io ti dico, per me è una questione più di atteggiamento, poi magari ormai io non so, sono anche troppo diciamo esterofilo, vivo in Spagna, vivo il calcio in un'altra maniera, però mi avrebbe fatto piacere che la Juve poteva venire qua, c'era una buona atmosfera, era una buona occasione per dire, beh, noi ce la giochiamo, i giocatori ci sono, e invece cioè, ieri Pogba e Vidal non si sono visti, e le due punte, poverette, cosa dovevano fare? Non gli arrivava niente. Sì, tra l'altro, no, due punte che erano in grandi condizioni, perché stiamo fino a 3 giorni fa, diciamo, Tevez, il più forte giocatore del campionato italiano di gran lunga, in un momento straordinario, forse non è mai stato così in forma, cioè prova a sfruttare queste caratteristiche, queste qualità che hai, di Tevez, sì, dei due incursori, dei centrocampisti, contro un Atletico ripeto... Non sarei così severo. Cioè... No, ma non è una severità, Pier, non so essere severi, così è un dibattito, insomma, si possono vedere le cose in maniera diversa, ci si poteva provare, io... Sì, è chiaro, la Juve cosa ha fatto? Mi sembra che abbia fatto un punto nelle ultime 5 trasferte europee o 6, quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di una squadra di leoni in trasferta in Europa, per cui ci sta che quindi vieni qua e sei un po' condizionato, ti spaventa l'Atletico, c'è un grande ambiente, Non è una condanna, però mi avrebbe fatto piacere così, ecco, provarci un pochino di più. Questo senz'altro, e sono d'accordo sul fatto che rimane una grande occasione perduta, su questo non c'è discussione. Però credo anche che tutto sommato il gol sia stato abbastanza casuale, causato da una cattiva lettura, che l'Atletico, che comunque doveva giocare in casa e vincere a tutti i costi, perché esattamente come per la Roma, un pareggio ieri sarebbe stato un ottimo risultato per la Juve dopo la vittoria della prima partita, un pessimo risultato per l'Atletico, e tu questo risultato lo stai portando a casa. Poi sicuramente il gol ti ha scompaginato i piani, hai provato a reagire, hai costruito quel paio di situazioni nel finale, e sicuramente alla fine torni a casa triste, con la sensazione di aver buttato via una grande occasione. Però io non ho visto una Juve in sofferenza, ho visto una squadra che ha giocato la partita e che se deve avere un rammarico è proprio quello, è solo quello. Sì, ha sofferto solo i primi 5-10 minuti del secondo tempo, veramente basta. Va bene. Secondo me il bicchiere è mezzo pieno, rimane chiaramente il rammarico perché doveva arrivare un risultato positivo da una partita del genere, ma il test di maturità che sulla Juve, sulla consistenza della Juve, secondo me è superato. Sì, poi parliamo anche dei riflessi che questa partita e questa settimana può buttare sul confronto tra Roma e Juventus. Ne parliamo dopo io e te, Pier. A Filippo volevo solo far notare che in questa prima fase, ad avvalorare un ragionamento che io condivido, quello di Filippo Maria Ricci, in questi primi giri di Champions, insomma, vedi anche il Real Madrid che con il Ludogorets va sotto e deve rimontare, vedi il Liverpool che perde a Basilea, vedi dei risultati che, insomma, sono anche forzati, no? Esatto, cioè che quello che ti spingono a un ottimismo. Sì. Il Ludogorets poteva farcela anche a Liverpool e gli è andata male con un rigore alla fine. Ieri secondo me meritava anche il pareggio. Però in generale poi alla fine il Malmo ha battuto l'Olympiacos che aveva battuto l'Atletico Madrid. Per questo dico, è la seconda partita, hai vinto la prima, puoi venire qua e dire lo sai che c'è? Adesso proviamo a fare, diciamo, a fare risultato, a fare la partita e così. Poi è chiaro, cioè, una questione un po' di mentalità, no, per questo ho detto, ma la ricordavo ancora negli occhi la partita di Bilbao dove appunto il Napoli doveva far trova anche un gol, però poi dopo gli mancava quella convinzione di poter dire ma noi giochiamo e poi dopo se perdiamo va bene lo stesso, insomma, ecco, anche un minimo di serenità in più. Ma forse abbiamo le squadre italiane incartate un po' in questo, molto preoccupate, forse abbiamo anche nei il giudizi complesso di inferiorità nei confronti delle spagnole, forse, ma questo qualche complesso di inferiorità nei confronti dello spagnolo ce lo portiamo dietro. Può essere anche questo. Phil, grazie, alla prossima. La partita in Spagna non ha mai vinto. Un pareggio e 5 sconfitte. Per cui, sì. Benito. Grazie, Filippo. A voi, ciao. Tutti convocati. Credo che il girone è aperto perché il Malmo ha battuto l'Olympiacos. Stasera sicuramente solo in caso di vittoria potevamo mettere un'ipoteca importante sul passaggio del turno, così non è stato, mancano ancora 4 partite e ce la giocheremo. L'Atletico Madrid fa parte dell'elite del calcio europeo, però è anche vero che io credo se si vuole fare un passo in avanti, ecco, prendere il diploma di maturità per l'Europa, bisogna cercare di osare magari ogni tanto qualcosa di più, a rischio magari di concedere, ecco, qualcosa. Beh, tra i due io continuo a stare con Buffon, che sposta l'asticella un po' più avanti, un po' più in alto. Ma è ovvio che siamo tutti con Buffon. È come dire se della parte del bene o del male, mi spiego. Se della parte del coraggio o della paura, se della parte del calcio offensivo o del calcio difensivo. È chiaro che siamo tutti d'accordo, bisognava crederci di più, bisognava spostare avanti, bisognava avere più coraggio, è ovvio, soprattutto dopo una partita che è 1-0 con un gol a un quarto d'ora dalla fine. Io non discuto questo. Trovo eccessive, secondo me, le critiche dopo una partita che è stata una buona partita della Juve, pensata in quella maniera lì e controllata senza grandi problemi. Trovo un po' eccessivo questo dibattito. È anche una forma di di mentalità, cioè mi piace, anche a me parli, cioè, è un grande implicito complimento alla Juve. Siamo, ma Pier, ma alla, in fondo è quello che abbiamo detto negli scorsi giorni, no? Cioè stiamo provando a uscire da un momento di grande pressione in cui fai le cose belle perché gli avversari sono sfigati, perdi perché sei scarso tu, eccetera eccetera. Abbiamo avuto tutto sommato un inizio di stagione interno e sul fronte internazionale fino a questo momento positivo. Proviamo a continuare a pensarla in questo modo, no? Quindi le critiche che facciamo alla Juve, è chiaro che dici in valore assoluto perdi 1-0 sul campo dei vice campioni d'Europa, dei campioni di Spagna, in un girone equilibratissimo, tutto ci sta. Ma in questo momento magari qualcosa di più ti aspetti da Tevez, ti aspetti dai giocatori che sono in condizione, ti aspetti da Pogba che sta rinchiostrando il contratto, è sul punto di esplodere. No? Noi abbiamo detto, e l'abbiamo sostenuto proprio per il partito dell'ottimismo, che eravamo confident, no? Eravamo ottimisti su queste due trasferte, sì, che erano però due trasferte contro i campioni di Spagna e contro i campioni d'Inghilterra. Veniamo da anni in cui il calcio italiano viene preso a schiaffi da tutte le parti. Io credo che queste due partite hanno dimostrato che queste due squadre sono in grado di giocarsela con tutti. Poi sono d'accordo con te che la Roma, un po' per il tipo di partita e un po' per le sue caratteristiche, e ne do atto ovviamente a Garcia, abbia giocato una partita sicuramente più spettacolare, più da protagonista, con più personalità e con più qualità. Ma la Juve non è che ha concesso 10 palle gol all'Atletico Madrid e si è fatta schiacciare, ha giocato alla pari in casa dei campioni di Spagna, vice campione d'Europa, fuori casa. Qui io solo questo dico, poi è ovvio che era meglio, è certo che è meglio ed è anche molto popolare dire che bisognava provare ad attaccare di più. Ma se, magari in questo momento però lo puoi fare, magari fra 3 mesi, 4 mesi, magari a primavera, questi non li prendi più, no? Adesso Ludogorets rischia di battere il Real, Ludogorets, capisci? Ci sono risultati di questo tipo, magari tra un po' non è più possibile. Quella secondo me è un'altra storia, non c'entra molto il fatto del Real Madrid. Secondo me è evidente, sono d'accordo. Ieri la Juve ha perso un'occasione, stava a Sandir, doveva pareggiare una partita, meritava di pareggiare una partita che alla fine ha perso. Su questo non ci sono discussioni. L'eccesso di critica mi sembra appunto un eccesso. Sì. Sentiamo gli ascoltatori, cosa dici? Sono tanti, sì. Vai, tantissimi. Vai. 800240024, ordine sparso. Massimo Varese, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Dica. Volevo fare un breve intervento sulla partita di ieri della Juve. Ho trovato, pur non essendo un grande estimatore, molto lucida l'analisi di Allegri. Cioè, realmente ieri sera mi è parso che l'Atletico abbia dato molto poco modo di giocare alla Juve, se erano in 10 dietro la linea della palla e quindi anche fare pressione e provare ad essere più aggressivi risultava veramente difficile, quindi era una partita molto molto bloccata, quindi e sì, questo credo non solo per dei meriti della Juve ma soprattutto per un atteggiamento dell'Atletico, peraltro noto, perché insomma giocano così, questi stanno dietro, picchiano abbastanza e più che altro segnano su calcio piazzato, ecco, questa era la mia idea, quindi... E questa è un'ulteriore considerazione, d'accordissimo, ed è un'ulteriore dimostrazione di quello che dicevo un attimo fa, cioè ribaltiamo un attimo la prospettiva. L'Atletico Madrid ha vinto ieri in casa una partita che doveva vincere a tutti i costi, con un gol abbastanza episodico e casuale a un quarto d'ora dalla fine in una partita equilibrata. Cioè, se valutiamo la prestazione, non soltanto il risultato, secondo me l'Atletico Madrid ieri ha giocato una partita così, e se ha giocato una partita così, bisogna dare atto anche alla Juve che gliel'ha fatta giocare così. Poi è ovvio che il risultato fa opinione, e quindi è chiaro che la Juve torna a casa con un discreto rodimento e anche con la possibilità di criticarla, ed è altrettanto vero che forse era un'occasione nella quale bisognava spingere di più, ma non mi sembra che si possa colpevolizzare la squadra per la prestazione. Poi che l'Atletico ti faccia giocare male è abbastanza evidente, insomma. Sì, ti fa giocare male, ma questa non è nemmeno una novità. Più che altro questa partita è un ragionamento che poi facciamo, potrebbe aprire le porte a qualche cambiamento, perché sai che ieri abbiamo parlato di Pirlo, no? Che è sul punto di rientrare, eccetera. Avessi vinto anche questa, magari continui, formazione che vince, non si cambia, eccetera, eccetera. E poi c'è anche il discorso di Llorente, che pure può sembrare un po' affaticato, e c'è Morata che scalpita. Magari questa sconfitta può essere anche la, l'incipit la, che Allegri, per Allegri di un, per qualche cambiamento, può essere anche questo, questa è un'ipotesi. È chiaro che cambiare dopo una vittoria è sempre psicologicamente più difficile che cambiare, certo, dopo una sconfitta, da questo punto di vista, un po' perché oggettivamente alla fine conta il campo, cioè noi dobbiamo in questo secondo me fare un grande lavoro culturale, cioè non essere schiavi del risultato, perché non sempre il risultato racconta la verità di una partita, ma comunque il risultato non è mai casuale, cioè non si può pensare sempre che sia il destino, le asteroidi, la sfiga, o cioè se alla fine una partita la perdi è perché qualcosa è successo. È chiaro, sì, che sì, sì, gli episodi sul gol dell'1-0 c'è un errore individuale piuttosto grosso che è una mancata chiusura, e amen, però voglio dire, il primo gol che prende la Juventus, primo gol che prende la Juventus, poi non dimentichiamo che c'è fuori Barzagli dall'inizio della stagione, e che tutti abbiamo sempre considerato il barometro di questa difesa. Ci sono molti ragionamenti che possono essere fatti sul punto. Eros Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorrei poi parlare anche di altro, magari di Inter Karabakh di questa sera, Torino, o di Torino Copenaghen, no, che Pardo andrà a raccontare, sarà un partitone. Purtroppo vi contatto perché vorrei andare un po' fuori dal coro e parlare un attimo del valore assoluto di questo allenatore. Io parlo da juventino. Valore assoluto di Allegri? Di Allegri, sì, che magari non più tardi, due mesi fa, noi popolo juventino avevamo più di un scetticismo all'arrivo di questo allenatore, diciamo, dopo aver passato tre anni incredibili con Conte. E volevo fare un'analisi con voi e avere una vostra opinione. Ma se io dopo un'ora di partita non faccio neanche un tiro in porta Tevez e Llorente, con Morata che ha voglia di giocare, con Giovinco che ha voglia di giocare, che si è visto che sono entrati Morata magari col piglio anche troppo esuberante, ma cosa aspetto a cambiare se voglio vincere la partita? Cosa aspetto a buttare dentro magari due giocatori, o comunque cambiare qualcosa e cercare di trovare il filo ad andare a provare a tirare in porta questa squadra che non mi ha concesso neanche un tiro in porta? Io credo che questo sia un limite di Allegri, che non vorrei mai che avanzando con il tempo ci porti a fare la fine ogni anno su questa maledetta coppa che non riusciamo più ad andare avanti. No, io non starei a disquisire il valore assoluto di Allegri, però sul punto specifico di cambi un po' tardivi sono d'accordo. Sì, ma sicuramente. Ma io ti dico, io quella cosa che ha detto Sacchi è vera. Quella cosa che ha detto Sacchi è vera, cioè è vero secondo me che a un certo punto la partita ha ingannato la Juve, è stata la classica partita da episodio, ma io domenica scorsa ho raccontato il derby di Genova, che è stata un'altra partita da episodio, risolta a 20 dalla fine da una situazione di calcio piazzato, cioè sono partite sulle quali con la posta in palio che è altissima, con la pressione che è altissima, con un binario che sta andando così, puoi rimanere impantanato, ed è quello che è successo ieri. Ma insomma non esagererei però con le critiche, perché sennò c'è un'altra metà della partita di ieri, che è la prestazione, che è la forza complessiva della Juve. Ieri ho visto la Juve che non è inferiore alla squadra, no, non è inferiore all'Atletico Madrid, questo è evidente, questo, ma ci sono molti segnali, ci sono molti segnali incoraggianti, infatti in questo abbrivio. Certo è che proprio per questa ragione e in questo specifico momento una Juventus con più coraggio e magari Allegri un po' più sveglio nel dettare i cambi, le variazioni alla squadra, poteva succedere qualcosa di diverso. Allora, traffico, poi continuiamo a chiacchierare. Tra l'altro voglio sapere da Pardo quanto rischiano l'Inter con il Karabakh questa sera e il Napoli che gioca a Bratislava a casa di Amsic. Sono entrambi in un momento molto complicato e secondo me rischiano non poco, ma non tanto in termini di qualificazione quanto in termini di serenità futura. Lo ripeto, la Juventus sta all'altura del Real Madrid Barcellona, sicuramente, almeno per me. Tutti convocati. Giocando come squadra, senza comprare giocatori per tanto soldi, ha fatto un anno spettacolare. Credo che quello deve essere il nostro segno, no? Seguire quello che ha fatto l'Atletico Madrid. Queste sono parole d'archivio di Llorente, che dice vogliamo fare come l'Atletico Madrid, si può fare anche meglio, però secondo me si può, la partita di ieri ha dimostrato che si può fare anche meglio. Francesco Torino, buongiorno. Buongiorno Carlo e buongiorno anche a Pierluigi, grazie. Ciao. Giovanni da Brescia scrive che con una maglia del genere la Juventus non poteva fare di più. Magari ha ragione lui, magari ha ragione Giovanni da Brescia, magari ha ragione lui, sì. Sono d'accordissimo, quel verde era proprio stonato. Comunque, a parte tutto, io vorrei dire questa cosa. A parte che sono d'accordo con quanto ha detto poc'anzi Pierluigi Pardo, secondo me è anche la mia opinione, però volevo dire un'altra cosa, fare un piccolo raffrontino velocissimo per quanto riguardava la mentalità europea della Juve di Conte e quella di Allegri. Allora, io ricordo questo, nonostante che Conte l'anno scorso abbia fatto un fallimento sicuramente, però ricordo una cosa, che quando la Juve andava in trasferta anche a giocare in Danimarca dove faceva gli 1-1, però quantomeno giocava, tiri in porta ne faceva tantissimi, poi ha trovato anche un portiere che parava tutto quella sera. Ho capito, ma giocava in Danimarca però, Francesco, Hai ragione, Galatasaray-Juve, che è stata Galatasaray-Juve, dai. Una partita giocata su un campo assurdo e il campo ha condizionato la partita, lo dico senza se, senza ma mi ricordo benissimo le critiche che vennero fatte a Conte dopo quella partita, ed erano critiche oggettive, perché la Juve anche nella parte che si era giocata la sera prima col terreno che era ancora in buone condizioni non aveva mai tirato in porta in quella mezz'ora, esatto. E di fatto ebbe un paio d'occasioni ma esatto. Sono partite che ti ingannano, sono partite dove rimani impantanato, perché il pareggio andava benissimo a Istanbul e il pareggio andava benissimo ieri sera a Copenaghen. Juve fu una partita completamente diversa con il portiere del Copenaghen che fece 57 parate, fra l'altro stasera c'è proprio Torino Copenaghen e quindi vedremo insomma se si ripeteranno i miracoli di Milano. Gioca Mauri, no? Ripescato dalla naftalina, dall'infermeria, giocare Milan che fu il portiere che fece 57 parate l'anno scorso. Però voglio dirti, sono quelle situazioni nelle quali rimani impantanato. Gasperini è stato criticato l'altro giorno dopo il derby e sicuramente il risultato alla fine fa opinione, ma quella era una partita da 0-0. Cioè quello che puoi rimproverare al Genoa dell'altro giorno è che ha concesso un calcio di punizione in una partita bloccata a Gabbiadini e poi si è giocata male dal punto di vista difensivo, ma la prestazione non è stata la prestazione della squadra che ha meritato di perdere la partita, e la Juve per me ieri non meritava di perdere. Sì. Ascolta, quanto rischiano invece l'Inter e Napoli questa sera? Ma io, da come hanno affrontato, cominciato ad affrontare l'Europa League, che faccia hanno secondo te? Voglio sperare veramente che non rischino nulla, che rischino pochissimo, perché l'Europa League e quello che hanno fatto Juve e Roma in questi due giorni secondo me lo dimostra. L'Europa League noi ce la possiamo giocare alla grande, le nostre squadre possono giocarsela alla grande, per cui dipende con che squadra scendi e con che voglia scendi. No, ma questo... L'Inter pensa già a Firenze, è chiaro che rischia. L'Inter può rischiare col Karabakh se gioca, se pensa a Firenze, se Mazzarri affronta queste partite come affrontava anni fa sulla panchina del Napoli l'Europa League, se invece l'affronta come secondo me si è visto già a Dnipro Petrovsk, cioè meglio a Kiev nella prima partita, allora secondo me non rischia niente, vince, ritrova il sorriso e domenica... Beh, ma sai, esce al di là del valore dell'avversario eccetera, di quanto cambierà la formazione, comunque cioè, c'è grande attenzione sull'Inter, perché non è banale quello che è successo domenica, e io credo che questa sera ci sarà comunque anche molta tensione, no? Cioè si aspettano delle risposte al di là dei giocatori che andranno a giocare. Mazzarri dice: ma non ho terzini, mi rimangono Nagatomo, D'Ambrosio davanti, insomma fa ampio turnover, ma fa ampio turnover anche Benitez, che ha detto: io turnover lo faccio, ma lo faccio per vincere, gioca Micciu davanti, boh, non lo so se questo è esattamente vero. Ce l'abbiamo Benitez, sentiamolo. È la mia idea, sempre stato, ci devo cambiare i giocatori, anche lo faccio per vincere. Credo che per affrontare due partite alla settimana con tre giorni al mezzo devi cambiare i giocatori, ma questi che giocano una partita o l'altra devono dimostrare in campo il suo livello, la sua mentalità, e questo sempre aiuterà alla squadra in tutte le competizioni ad andare più avanti. Questa era Benitez, Pier. Questa era Benitez. È importante l'andamento di Napoli e Inter in Europa League. Poi magari hai visto mai che a casa sua ritroviamo anche Amsin, che è sparito da un anno e mezzo. È uno dei grandi misteri, eh? sarebbe un'occasione bella, bella, importante. Sarà la cresta, sarà la cresta. Il Sharawi, grande mistero. Hamsik, grande mistero. Sì. Balotelli non è neanche più un mistero, ormai non lo possono più vedere neanche a Liverpool, mi pare. Ho letto così. Tra l'altro, Liverpool, a proposito di risultati bizzarri, le ha prese anche a Basilea 1-0. Sì, ma Liverpool non sta bene, l'ha dimostrato in campionato, e ho la sensazione che quello scivolone di Gerrard verrà ricordato a lungo come qualcosa che poteva essere, non è stato, e per la quale bisognerà attendere per parecchio tempo. No, io credo che insomma Hamsik abbia avuto dei problemi di carattere psicologico, abbia avuto dei problemi soprattutto di carattere tattico, che la sua posizione in campo mediamente sul 4-2-3-1 con Benitez è un po' troppo schiacciata e non riesce ad avere il campo, lo spazio, i metri per poter fare la differenza con quella che è la sua qualità migliore. Hamsik non è un uomo squadra, Hamsik è un grande centrocampista di inserimento e di tiro, un giocatore sempre in doppia cifra tranne l'anno scorso in stagione, uno che ha dei grandi colpi, ma non è un giocatore sul quale puoi di straordinaria intelligenza. Non è l'uomo squadra in mezzo al campo, certo. E quindi è molto una questione di spazi che lui ha a disposizione, e col 4-2-3-1 se ne ha molti meno. Certo. Poi è vero pure che aveva cominciato benissimo con Benitez, questo va riconosciuto, prima dell'infortunio aveva cominciato alla grande, quindi poi vai a sapere che cosa si è rotto, se si è rotto qualcosa dal punto di vista psicologico o se è solo un aspetto tattico, però il risultato è quello. Ciao Pier, sentiamo domani. Ciao. Ci vediamo domani a Genova, ve lo ricordo. Tutti convocati in diretta, Genova, Salone della Nautica, vi aspettiamo lì. Adesso Bet Corner, GR, poi torniamo per un'ora. Quote e pronostici. Dopo la sberla dell'Atletico sulla faccia della Juve, questa sera è tempo di Europa League con Inter, Fiorentina, Torino e Napoli in campo. Partiamo dagli uomini di Montella che giocano nel freddo di Minsk contro la Dinamo. Si parte alle ore 19 e sono queste le quote SNAI per questo match. L'1, la vittoria della Dinamo Minsk, è quotata a 5, l'X è a 3,60. Il 2 invece, con il successo viola, è quotato 1,73. Sempre alle 19, Napoli in trasferta in Slovacchia, Hamsik torna a casa. Slovan Bratislava contro Napoli, l'1 una vittoria degli slovacchi è quotata 5,75, l'X è a 3,75, il 2 invece è quotato 1,60. Alle 21,05 è il turno invece dell'Inter impegnata a San Siro contro gli azzeri del Karabag, l'1 una vittoria nerazzurra è quotata 1,25, l'X è a 6, il 2 invece è quotato 11. Torino impegnato sempre alle 21,05 all'Olimpico contro il Copenaghen, l'1 una vittoria di Granata è quotata 1,67, l'X è 3,65, il 2 invece è quotato 5,25. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci a domani. Tutti convocati. Magari a muro da qua fa ombra. Pallone che scende, bianco, primo tempo che mette su Valentina Righetti e ci andiamo a prendere i tre punti che abbiamo visto. No, mi sono addormentato. Grandissimi ragazzi che hanno vinto anche contro l'Azerbaigian. Ma io mi sono addormentato, sono andato dalla Spagna in Bulgaria, sono arrivato a casa ieri sera, anzi stamattina, ho messo su My Sky per registrare la partita, ci siamo svegliati, mi sono svegliato adesso. Vabbè, abbiamo vinto 3-1, caro Carlo Genta, anche la prima partita della seconda fase, 3-1 contro le Azzere, e ci siamo messi lì. Ora siamo in classifica messi alla grande, 10 punti, uno dietro la Cina, e stasera l'appuntamento è sempre lo stesso, ormai lo sanno tutti, ormai anche sui block notice in casa tua c'è scritto ore 20, Rai Sport 1 contro il Belgio, caro Carlo. Sì, perché è così, perché siamo una squadra, ok, siamo una squadra vera, una squadra con 14 giocatrici, non conta chi va in campo, chi è infortunata, chi è titolare in panca, ma queste ragazze stanno dimostrando di essere una vera squadra. Senti cosa dice, cosa scrive, anzi Sara Anzanello nel suo Anza Space sulla Gazzetta dello Sport. Definizione di squadra, questo è per te Carlo, gruppo di persone che lavorano insieme per lo stesso obiettivo, e quando l'obiettivo è mondiale il concetto di squadra deve essere rafforzato. Bisogna percorrere ancora molta strada per arrivare a Milano, ma ciò che ho visto finora fa ben sperare. Ho visto una squadra con la S maiuscola e ho visto delle atlete che hanno fiducia in questa squadra. Tu non hai fiducia in questa squadra? Non me ne frega niente, stasera ti vedi la partita e domani da Genova, tutti convocati, live dal Salone Nautico, vi aspettiamo lì e io sarò lì. Con voi per parlare di volley, Pierluigi Pardo, Carlo Genta, e vi tirerò tutti scemi, naturalmente, adesso. Sentiamo Bonitta, come sempre, ciao. Sì ragazzi, credo che si sia visto che ogni partita è a sé, perché non conta l'avversario, conta ogni partita, adesso nella testa, nelle gambe. tutte le squadre hanno ben diverse situazioni rispetto a un mese fa. Allora siamo partiti bene, abbiamo interpretato bene la gara, loro hanno fatto qualche cambio ma soprattutto hanno cominciato a battere come si deve, sì. Hanno rischiato, gli è andata bene, hanno dei giocatori che in contrattacco sono forti, sono alti, tirano bene. Non lo so, guarda, credo che alla fine ci stia una vittoria anche col cuore dopo aver fatto bene i primi due set, Maluccio nel corso del resto della gara, però insomma, questo va bene. Tre punti, ragazzi, me li prendo molto volentieri. No, poi vorrei capire per quale ragione vengo denigrato in questo modo da Piantanina. Speravo di aver perso in Bulgaria. Fatevi due risate, li vedete tutti seri. È sempre qui a smaronarmi. Ma per quale ragione vengo denigrato in mondiali di pallavolo? Naturalmente li sto seguendo, mondiali di pallavolo femminili. È chiaro che non mi guardo tutti i set di tutte le partite, ma so perfettamente qual è il cammino delle azzurre, quali sono i loro pregi, magari i loro difetti. E so anche qual è l'obiettivo finale. Dunque, inutile continuare a denigrarmi in questo modo. Andrà a finire che dedicherò tutta la puntata ai mondiali di pallavolo da qui in poi. Non avete niente altro da fare? Giordano, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Vi sta guardando lei i mondiali di pallavolo femminile, vero? No, non li sto guardando. Ecco. Io sono un super tifoso di calcio E basta. Tutto il resto, anche gli altri, ma la pallavolo è uno sport che non mi piace. Non le piace, vabbè. Piantanina allora, sta piangendo, ma pazienza. Parlo per ieri sera. Sì. La partita di ieri. Io sono un super super tifoso juventino che tra virgolette ha pianto calde lacrime quando abbiamo preso Allegri, metaforiche chiaramente parlando, no? Uomo che ha sempre dimostrato scarsissima personalità sia da giocatore sia anche come allenatore, insomma sempre stato un numero 3, non un numero 1, un big. Ma perché? E ieri sera lo ha dimostrato, non si può giocare con una squadra che gioca in 10 dietro la palla, giocare, fare il tic-tac a centrocampo, ma vai in aria, tiri in porta. Gliel'ha detto Sacchi quanti anni, era dal 2006 che le Juventus non facevano tiri in porta, è una vergogna. Io spero solo Ma Giordano, però mettiamo, insomma, mi sembra che Allegri fin qui abbia fatto benino, no? Giordano, però mi perdoni, guardiamo contro chi ha giocato Conte l'anno scorso. Sì, ma in Italia l'anno scorso Conte ha dominato. E anche Allegri sta dominando. Fino adesso punteggio pieno, nessun gol subito. Anche Allegri mi sembra che stia dominando in Italia. Voglio dire, cerchiamo una misura, se è possibile. Perché se Conte era il fenomeno di cui non possiamo più fare a meno, per i tifosi juventini, quanto mi sta dicendo, penso che l'anno scorso il comportamento, poi valutiamo Allegri nel complesso di questo girone, e se la Juve uscirà, avrà fallito come ha fallito Conte lo scorso anno con avversari più deboli, ma questo non è una giustificazione. Quello che dico io è che secondo me Allegri ieri è stato davvero troppo rinunciatario, la Juventus ieri sera è stata troppo rinunciataria, ha portato in campo un complesso di inferiorità che non era necessario, anche perché sta vivendo un momento di eccellente condizione psicofisica, poteva monetizzare questo eccellente momento di condizione psicofisica su un campo difficilissimo finché volete, ma contro un avversario che tutto sommato era alla portata, quindi questo è quello che dico. È chiaro che l'atteggiamento in Europa della Juventus e della Roma è diverso. La Roma che gioca in un girone difficile, diciamo che gioca per divertirsi e per divertire, che gioca per il piacere di giocare una serie di grandi partite, ma non è una questione di vita o di morte passare il turno, per parlarci chiaro. Per la Juventus è una questione di vita o di morte sportiva passare questo girone, e quindi la condizione è diversa. Probabilmente anche Allegri ha sentito e sta sentendo questo tipo di responsabilità. Ieri la Juventus secondo me ha buttato via un'occasione, quindi non mi sento di essere ottimista, ma non ottimista, non mi sento di assolvere la Juventus di ieri sera, è un'occasione sprecata, questo sì, ma da lì a dire tutto quanto sta dicendo lei, secondo me ne passa un po'. Mario, provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno. giornata, grazie. Se mi permette di fare un po' l'ironico. Certo, ma la prego in ginocchio, mi dica, faccia allora, l'ironico. Sentendo i nostri ministri, se c'è una legge si sentono 20 persone, 20 discorsi diversi. 20. Magari 22 o 23. Come noi ascoltatori che telefoniamo, sì. 20, abbiamo 20 idee diverse. Io che sono. Ma speriamo, ma meno male che è così. Pensi, sì, lei però, immagini se tutti chiamiamo e diciamo tutti la stessa cosa, siamo d'accordo su qualunque punto. Io fossi un ascoltatore, dico, ma mandate un po', ascolto radio. Ma quello che vuoi. Perché in questo momento una persona riesce anche da una parte, da un lato ironico, come dicevo prima, anche a divertirsi. Non ci sono scuse. La Juventus, purtroppo, io sono anti-juventino, è una squadra che fino a Lugano si conosce. Sì. Dopo Lugano si perde. Dopo Lugano si perde? Sì, si perde. Ma. Perché è quello che ha fatto l'anno scorso, è quello che ha detto ieri sera Buffon, che è il girone più forte dove c'è dentro la Juventus. Da questo momento in poi dico, ahimè, il no, ma Buffon, no, no, però Buffon ha detto, ieri sera ha detto una serie di cose sensate. Ha detto, Buffon è stato quello che ha fatto l'analisi più onesta di questa partita, dicendo sostanzialmente quello che stiamo dicendo noi, cioè un'occasione persa. Visto lo stato, visto il momento, la Juventus ha perso un'occasione, perché in Coppa bisogna ragionare anche così, anche di sbattere fuori un avversario, un competitor forte, perché magari poi te lo ritrovi, magari fra passano tutte e due, magari c'è un nuovo incrocio a primavera, magari l'Atletico è migliorato, magari quando hai la possibilità di sbattere fuori una forte, lo devi fare e devi giocare per sbatterla fuori, anche a costo di rischiare qualche cosa. Questo è un ragionamento che le grandi squadre spesso hanno fatto e che a Torino ancora evidentemente non è passato. Non è che vivo a Marte, quindi conosco tutti i rumors, c'è questa tempesta, diciamo, ma quello che vogliamo, quello che dobbiamo fare almeno noi qui in squadra è trovare un'armonia e lottare in pista, che è quello che siamo qui a fare, e battere alla Williams, questa è la prima priorità. Seconda priorità sarà il mio futuro, ma come dico, tutto quello che farò per il bene della Ferrari e per l'amore della Ferrari. Leo Turrini, sei su Marte? No, io sono qui che pensavo che era Ferrari. C'è Mattiacci adesso, no? Sì. Ma in realtà servirebbe Massimino, il compianto presidente del Catania, perché lui diceva: manca l'amalgama, vado a comprarlo. Vado a comprarlo, sì. Possiamo accordarci per Ferrero, presidente della Sampdoria? Sì, ma voglio dire, Ferrero, va bene. Alonso ha detto da Marte, cioè da Suzuka, manca l'armonia, e allora andiamo a acquistarla non al calcio mercato ma al mercato piloti. Cosa vuoi che cosa viene al chilo? Quant'è al chilo? C'è il traffico adesso? Traffico. No, non c'è traffico, vai sereno. No, volevo dirvi solo che se siete in coda tra Pero e Cormano, stavolta Raikkonen non c'entra perché è in Giappone. Quindi volevo rassicurare gli ascoltatori del traffico, la rubrica che io più amo dopo Barisoni su Radio 24. Sì. Sì. Ma l'impressione è che siamo ai titoli di coda, anche perché tu forse non hai l'audio di quello che ha appena detto Marchion nel salone dell'auto di Parigi. Che sarebbe? L'uomo col maglione, ha detto, non da Barisoni ma dai cronisti presenti, ha detto: ma su Alonso io penso che la Ferrari sia più importante di qualunque partner. Cioè, concetto non inedito, peraltro. Ha fatto una dichiarazione presa pari pari, diciamo così, dalla raccolta delle frasi bravo, del Drake. Esatto. Marconi si è già immedesimato nel ruolo di presidente. Devo dirti che a Parigi, arrivato con una multipla metano con la sua auto di servizio, c'è anche l'uscente barra usciere attualmente Maranello Luca Cordero di Montezemolo. Hanno chiesto anche a lui pochi minuti fa su questa vicenda di Alonso e l'uscente barra usciere ha risposto dicendo: Alonso deve parlare con Mattiacci, sono sicuro che troveranno la soluzione migliore per tutti. Sì. Frase che significa: qualunque cosa, insomma, hai capito? Che significa? Che significa? La storia è finita, trattiamo un'uscita. L'impressione di caro Genta, è che siamo là alla famosa canzone, mi sembra, di Morrison, no? Sì. The End, My Friend, hai capito? The End, My Friend. Yes. Si chiama il titolo, yes, di coda, yes, insomma, nel senso che. Ma quindi il grande adesso, il grande, allora, ma se cerchiamo il grande imputato, lo chiedo anche agli ascoltatori, perché il grande imputato era Domenicali, poi il grande imputato è diventato Montezemolo, adesso il grande imputato è Fernandito Alonso, il più forte pilota, no, ecco, del mondo. Questo diciamo che non è giusto, nei confronti di Alonso, perché Alonso è chiaro. Chiaro che non è giusto. Stagione, no, ma lo dico io che spesso, soprattutto in Spagna, sono considerato un anti-Alonso, no? Sì, perché tu tifi per il biondino, lo sappiamo. Ma invece io penso che Fernando in queste 5 stagioni al volante della Ferrari abbia dato sempre il massimo, talvolta anche più del massimo. Vedi, la cosa però che è sgradevole è che evidentemente è venuto guastandosi qualcosa, per citare Ferrero e Massimino, proprio nell'amalgama, perché sono mesi, no, che questi mal di pancia di Alonso vengono esternati con disarmante puntualità, e sono anche mesi che la Ferrari dell'era Mattiacci, no, fa sapere che non ne può più. E vabbè, ma, cioè, ma poveretto, sì, ma io lo capisco anche, ma fin dal primo mal di pancia, quando ti ricordi aveva detto vorrei per come regalo di compleanno vorrei una macchina che va, facendo riferimento in quel caso alla macchina che magari avrà, cioè la Red Bull, allora, perché io credo problema, sia questo scambio di piloti in atto. Problema, caro Genta, come direbbero Pardo e Ferrero, è questo. Sì, vedi che io ti seguo. La Ferrari si trova in una situazione, parliamo solo di Formula 1, non dell'azienda, molto complicata, perché ha accumulato un ritardo tecnologico pesantissimo. Allora è evidente che non per colpa di Alonso. No, non per colpa di Alonso. Ah, ecco. È evidente che se quello che è, diciamo così, l'uomo immagine della scuderia, il top driver, non ci crede più. E voglio aggiungere, è un diritto di Alonso aver perso fiducia nella capacità Ferrari di... Ecco, allora, se è così, non bisogna stare a tirarla per le lunghe, è opportuno stilare un civilissimo divorzio. Certo, questo certamente. Certamente Alonso non ha interesse a restare in Ferrari, ripeto, se non ha più fiducia in chi lo circonda, e la Ferrari che deve rimontare non può, in virtù di un semplice pezzo di carta, che è un contratto, tenersi in casa un pilota con il quale non si trova più in sintonia. Ecco, questo dobbiamo dirlo con franchezza. Guarda, una sintesi perfetta la fa Luca via Leo, una sintesi perfetta la fa Luca via SMS. Carlo, non rompiamoci le palle, Alonso se ne vuole andare e fa bene. Ma io credo che questa sia la fotografia, cioè voglio dire. Io aggiungo anche una cosa, non scambiatemi per Marchionne, anche perché non amo i pullover, no? Però lo dico a tutti i ferraristi d'Italia che ascoltano Radio 24, a chi è in coda sulla Pero Cormano e che oggi può rasserenarsi sapendo che non è colpa di Raikkonen, sì, lo dico anche a Pardo, a Ferrero e quant'altro. Allora, è un momento così, sicuramente non felice, però la Ferrari è sopravvissuta all'addio di Niki Lauda, è sopravvissuta e ha vinto all'addio di Michael Schumacher. Allora, se veramente Alonso è arrivato a questa conclusione, ripeto, legittima, io dico, da ferrarista ce ne faremo una ragione. Cosa volete che vi dica? Ma non finisce mica il cielo, come cantava, non ricordo più se era Mia Martini o chi, hai capito? La vita è fatta anche di queste cose. A me dispiace, perché ripeto, parliamo di un grandissimo campione, però se uno non ci vuole più stare in un posto, cioè è come in un matrimonio. Ma è chiaro, ma non conosci quel giornalista famoso che si è sposato a Las Vegas, no? Forse l'hai sentito nominare. No. Se per caso sua moglie non ha più voglia, perché si è resa conto di aver fatto un errore a Las Vegas, forse questo collega tu lo conosci, e questo se ne va, e se se ne va, se ne faremo una ragione, se ne faremo tutti una ragione. Che dobbiamo dire, caro gente? Insomma, che vuoi dire? Che vuoi dire? Tu ridi? Ma secondo me, ti ripeto, secondo me fa bene Alonso, ma non capisco tutto questo cancan. Cioè, si può risolverla senza far volare gli stracci. Piuttosto mi dica lei prima di salutarla chi vince questo benedetto mondiale. Oh, allora, con questa corsa giapponese a notte fonda rendiamo omaggio alla Mercedes. la notte fonda no. Tu pensi, se ci fosse stato Jean Todt al muretto Mercedes, sì, con una macchina così, oggi uno dei porta avrebbe 100 punti di vantaggio. Ma non c'è, no? Ma non c'è. Il pinguino francese avrebbe applicato queste sue logiche, il top dell'antisportività, no? Uno deve arrivare comunque primo a prescindere, eccetera, eccetera. E io sono d'accordo, lo so che tu sei dell'esercito del pinguino, certo, ma certo, io invece ho apprezzato molto che almeno finora, 4 gare alla fine, va bene, ci sono state rotture, episodi anche spiacevoli tra loro, ma la Mercedes ha lasciato Hamilton e Rosberg liberi di giocarsela, la differenza in punti è minima. Io personalmente sono convinto che il nero abbia un leggerissimo vantaggio, cioè io lo considero, diciamo così, un filo più veloce di Rosberg, ma con una differenza minima, 4 gare da fare, l'ultima che vale doppio, può accadere di tutto. Certo, sì, però se adesso si è scavato un sottile vantaggio psicologico, guarda, ha infilato qualche bacco. Se io andassi a Las Vegas a sposarmi, come ha fatto un collega che stimo moltissimo, io, che tu conosci forse, non io credo, però punterei i miei dollari su Hamilton, visto che Las Vegas è da capitale. No, ma anch'io ti sto dicendo che ha infilato una serie di piccoli bachi nel cervello del biondino tedesco, perché che sembrava inattaccabile. Detto questo, io non cambio idea e sto con Jean Todt tutta la vita, perché mi manderebbe ai pazzi avere una macchina, come è successo, ne abbiamo visti diversi in passato, no? Fare questa cosa, no ragazzi, ma correte pure tranquilli, e poi arriva il terzo incomodo, che in questo caso non ci può essere perché è troppo staccato, povero Ricciardo, e bam! E allora a quel punto, comunque, poi me lo viene a raccontare, guarda, no? Ti do una piccola indiscrezione: se putta caso veramente Alonso divorzia, sì, e la Ferrari non riesce a mettersi in casa un altro top driver, sai che Vettel è il sogno, bla bla bla bla bla bla, l'opzione è Jules Bianchi, sì, il cui manager è il figlio di Todt. Quindi vi ritrovereste tutti in una grande famiglia. Tutti insieme appassionatamente. Sì, ciao Leo. Vi mancherà sempre la madre, ma l'armonia è quello che è, ma comunque va bene. Ciao Leo, ti voglio grande bene. Un grande abbraccio. Grazie, ciao, grazie Leo Torrini. Avevo un ascoltatore in linea. Ascoltatore in linea che non c'è più. Vabbè, allora facciamo così, ci fermiamo perché abbiamo la borsa e poi torniamo. Prima ho detto una cosa sbagliata, Gran Premio notturno in Giappone, invece no, perché la gara sarà alle 8 del mattino, certo, per vedere tutto quanto bisogna stare svegli un po' di notte, perché sabato libere 4 alle 5 del mattino, le qualifiche alle 7, differite comunque previste sulla Rai a ore consone. Tutti convocati. La sensazione che si è avuta è che la Juventus, inconsciamente o consciamente, abbia giocato più per il pareggio che per vincere la partita. Ci sono stati pochissimi tiri in porta, è stata una partita sotto questo aspetto non brillante, però loro qualche tiro l'hanno dato almeno. Ma Arrigo, io e te non ci troviamo mai d'accordo, non capisco, o te guardi un'altra partita o ne vedo un'altra io. Credo che abbiamo due concetti di calcio completamente diversi, perché... credo che tu ami molto di più l'Atletico Madrid per come gioca e magari un po' meno le squadre che, no, no, che hanno tentato che... come stasera. No, a me non piace l'Atletico Madrid e come gioca. Dico che hanno in fase di non possesso è ben organizzata. So. Credo che la squadra noi abbiamo cercato di vincere, non era semplice, abbiamo cercato attraverso la gestione della palla andare a limitare quelle che sono quello che è la forza dell'Atletico Madrid, che gioca affolate, fa delle mischie, alza sempre la palla e non fa due passaggi di seguito. Credo che questa sia una cosa molto evidente. E abbiamo fatto risentire che è divertente, perché i due non si prendono proprio, e non è la prima volta, ma bello così, no? Lorenzo da Milano. Grazie alla convocazione. Grazie a lei. Senta, io risponda a questa domanda. Automobilismo. Benissimo, però prima risponda a questa domanda. È pronto? Sì. Su quale emittente trasmettono le partite in diretta dei mondiali di pallavolo femminile? Ma non lo so. Come non lo so, devo andare via adesso? No, volevo fare. Vediamo se Andrea. Stia lì, Lorenzo. Sì, Andrea sì, da Vicenza, sì. Lei lo sa, no? Andrea da Vicenza è caduta, è andata a controllare il giornale. Vabbè, ve lo dico io, lo fa. Ma sarà un Rai Sport. Bravo. Ovazione per lui, eccezionale anche stasera. Bravo, Lorenzo, Rai Sport. Dica. Allora, dicevo, volevo parlare dello scambio Alonso-Vettel. Allora, io non parlo, non sono tifoso ferrarista, non sono, diciamo che sono disinteressato, io guardo la Formula 1 dal 75, quindi ho una certa età. Allora, io al posto di Vettel non farei lo scambio, perché secondo me le probabilità di avere una buona macchina sono più in Red Bull che in Ferrari l'anno prossimo. Sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo su quello che è stato detto riguardo Alonso, se se ne vuole andare, se ne può andare. Condivido anche l'idea che Alonso sia un pilota migliore, nel senso che a macchine invertite Ferrari Red Bull probabilmente Vettel non avrebbe tenuto vivi così tanti mondiali negli ultimi anni. Allora, lo dimostra il fatto che quest'anno con una macchina va benissimo viene bastonato. Posso? Prego. No, volevo dire che secondo me Alonso è il più bravo. È il più bravo che c'è, non c'è Vettel, non c'è Hamilton, non ce ne sono altri, secondo me è davvero il più bravo. Viene voglia di dire che abbia non sprecato, perché non ha sprecato nulla, ha guadagnato un sacco di soldi, la Ferrari è il massimo del prestigio possibile, però non ha mai avuto una macchina realmente competitiva in questi anni in Ferrari e si è giocato mezza carriera sulla Ferrari, quindi posso anche capire che abbia voglia di cambiare aria e non c'è niente di peccaminoso in tutto questo. Quanto a Vettel, io credo che invece da un'avventura in Ferrari potrebbe anche essere tentato, perché Vettel, che vince 4 titoli mondiali, grande pilota, ma non, secondo me non un fuoriclasse totale mondiale assoluto, cioè non uno del livello di Schumacher, Senna, di questi, dello stesso Alonso, mi faccia dire, dello stesso Alonso, e Alonso che ne ha vinti soltanto 2. Ebbene, quei 4 mondiali io continuo a considerarli un mezzo falso storico. C'è più l'ascoltatore? È andato via? Vabbè. Paolo, provincia di Rovigo, invece c'è. Ciao, grazie per la convocazione. Allora, io sono un tifoso milanista, ma abbonato per oltre 20 anni, poi per causa di forza maggiore ho dovuto lasciar lì. Da Rovigo a Milano tutte sante domeniche. Però sono contento per i cari amici juventini che si trovino uno come il signor Allegri, che è riuscito a perdere uno scudetto con Ibrahimovic. E se non ricordo male, il buon Ibrahimovic non gli voleva far del bene dopo la partita in Coppa, quella che perdemmo 4-0. Sì, hanno avuto qualche problemino. Sì, qualcuno. E più che altro quello che volevo sottolineare è questo: ma cosa c'entra nella Juve attuale praticamente un personaggio come lui rispetto a Conte? Cioè, non do tutti i torti a chi lo vuole mandar via, ma come, perché mandare francamente via? In Europa non è che ha fatto ridere di più. Bah. Cioè, me lo sono trovato io sulla mia pelle, quindi posso capire. Secondo me è un po' eccessivo con Allegri, perché Paolo, me lo faccio dire, Allegri ha fatto 3 stagioni al Milan, una delle quali ha vinto lo scudetto, e il Milan non vinceva lo scudetto da tanto tempo, mi dirà, vabbè, gli hanno preso Ibrahimovic, bravo, aveva Thiago Silva, bravo, è tutto vero, però intanto è andato lì, ha vinto lo scudetto. Ha fatto una brutta seconda stagione in cui effettivamente ha commesso molti errori, una terza stagione in cui invece gli hanno venduto tutti, in cui ha portato a casa un risultato dignitoso dopo essere partito male con una grande rincorsa, e ha fatto il suo. Da lì in poi è chiaro che era mal sopportato, eccetera, non c'è più stato feeling, ed è così è la storia della Grifinita. Però io non riesco a valutare come negativa l'esperienza di Allegri al Milan, e non riesco assolutamente, a maggior ragione, a dire che Allegri stia facendo male alla Juventus. Saluto e ringrazio Marco Bellinazzo dal piano di sopra Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao Carlo. Perché vorrei capire che cosa stai dicendo, scrivendo e raccontando ai lettori a proposito di questi quattrini che previsti dal decreto e che andrebbero dalle società al pagamento del servizio d'ordine. È un decreto che fa molto discutere, molto chiacchierare, è anche forse in buona parte un po' demagogico, non lo so, dimmelo tu, come lo valuti e cosa stai scrivendo? Guarda, proprio in questi minuti, insomma, la Camera dovrebbe approvarlo, perché addirittura è intervenuto il Premier in persona a dire che le società devono pagare gli straordinari dei poliziotti che garantiscono la sicurezza nelle manifestazioni sportive. La Camera lo approverà, poi passerà al Senato, ma mi sembra oggettivamente una misura demagogica che punta a colpire diciamo qualcosa che in realtà le società già pagano, perché Io ho messo insieme un po' di numeri e le società già pagano per la sicurezza interna di stati qualcosa come 15 milioni all'anno. Ora qui si tratterebbe di imputargli un pagamento di 2/6 milioni a seconda dell'aliquota che verrà applicata per pagare gli straordinari per la sicurezza esterna alle manifestazioni sportive, ma con un provvedimento, ripeto, demagogico, perché altrimenti dovresti fare così anche, non so, per i concerti. Esatto, per gli altri sport, no? Anche per gli altri sport, cioè si muovono partite di pallacanestro, di pallavolo, cioè ogni evento in cui è coinvolto l'ordine pubblico, in cui c'è una grande massa di persone che si sposta, che si muove anche volendo pacificamente, cioè anche per il Sei Nazioni dove non succede mai nulla se non quelli che ogni tanto si ubriacano di birra, cioè dovrebbe valere per tutti. Perché per il calcio si fa questo? Perché è facile colpire le società di calcio, additare i ricchi, che ricchi non sono più in Italia, lo sappiamo bene, ahimè, e diciamo tra l'altro per andare a coprire un fabbisogno che sarebbe di 25 milioni con un provvedimento che ne porterebbe in casa, se no, ripeto, 6 milioni, quindi non coprirebbe quel costo, e peraltro, ripeto, in una situazione di difficile applicazione, perché normalmente chi conosce di ordine pubblico sa di cosa sto parlando, normalmente i servizi vengono svolti, diciamo, nelle ore ordinarie di attività, salvo che succedano purtroppo eventi come quello della Coppa Italia che costringono a un prolungamento. Quindi è una misura demagogica che finisce per colpire il calcio. Tra l'altro si voleva anche presentare un emendamento che addirittura aumentasse questo prelievo, perché veniva parametrato questo prelievo non più a ricavi dal botteghino, che sono circa 220 milioni, ma al fatturato complessivo del calcio italiano, quindi 1,6 miliardi, e quindi insomma aumentando ulteriormente la cifra, ripeto, con un provvedimento che ha tanto e sa tanto di demagogico. Sì, ma sai, ma risponde non... a quante volte hai sentito, Marco, nei dibattiti a questa radio la domanda: ma perché devono pagare questi con i miei soldi? Perché devono pagare questi con i miei soldi? Peraltro, appunto, Carlo, se noi andiamo a guardare quanto versa di fisco al fisco italiano il calcio professionistico, quindi il Serie A, Serie B e Lega Pro, si tratta di 800 milioni all'anno. Io non so quale comparto industriale con, mettiamo, 100 società versi altrettanto. Quindi, diciamo, fanno parte, diciamo, della fiscalità generale e coprono quei costi, altrimenti per qualsiasi manifestazione con il pubblico, come abbiamo detto, chi la organizza dovrebbe farsi carico di pagare e straordinare le forze dell'ordine, ma saltano tutti i principi, diciamo, di equità e di equilibrio, e si va a colpire un settore che comunque resta un settore industriale importante. Poi tu sai quanto io critico le modalità di gestione del calcio italiano. Ma certo, questo è un altro discorso. Però un altro davvero discorso, questo mi sembra un provvedimento, cioè, improvvisato, buttato lì per raccattare un po' di consenso, certo, e che non produce poi gli effetti, diciamo, gli effetti benefici che dovrebbe portare, cioè pagare le forze dell'ordine che oggettivamente rischiano quando fanno quel tipo di, di attività. Sicuro. Quindi spero, insomma, che il pressing che il mondo del calcio sta facendo porti poi a cambiare eventualmente questo provvedimento al Senato, che dovrà essere parato entro il 21 ottobre. Perché dentro ci sono altre misure che andrebbero anche qui molto contestate, come per esempio il daspo di gruppo. È stato applicato il daspo di gruppo a un pullman di tifosi per i quali, diciamo, la misura è stata collettiva, quando se ne erano macchiati di atti, diciamo, di violenza all'interno di un autogrill in pochi. Anche qui costituzionalmente si deve ragionare. Perché io alle cose di gruppo sono sempre di principio contrario. Appunto, cioè sono a favore delle cose individuali, guarda. Assolutamente, quindi bisogna, secondo me, occuparsi con consapevolezza di alcune questioni e non lasciarsi andare alla demagogia con provvedimenti che fanno colpo sull'opinione pubblica, ma che di fatto non migliorano le cose. Ma tu sai come in certi momenti la demagogia porti un briciolo di consenso o qualche volta un briciolo di ossigeno. Marco, grazie. Grazie Carlo, a voi. Ciao. A presto. Traffico. Volevo dirvi solo che se siete in coda tra Piero e Cormano, stavolta Raikkonen non c'entra perché è in Giappone. Tutti convocati. Marco Roma, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Volevo stranamente difendere la Juventus, ma sono un tifoso romanista. Beh, no, che male c'è? No, c'è un male, no, poi perché lei dice così, la difende e poi la vuole castigare domenica alle 5 della tarde o più o meno. Questo qui è un assist che colgo volentieri, perché la domanda finale di intervento era proprio questo. Insomma, abbiamo visto qual è stata la storia di queste due partite infrasettimanali, però sanno che queste due grandi squadre adesso si temono a vicenda. Io vorrei che la razionalità dei due tecnici venisse meno e che si, insomma, avanzasse spazio per lo spettacolo, ecco. Perché a questo punto credo che ne mancano 30 di partite per lo scudetto. Non vorrei che fosse un pareggio quasi annunciato, invece spero che... Ma non è detto che sia così, Marco. Cioè, io non credo proprio che, ad esempio, la Roma rinuncerà alle sue caratteristiche domenica pomeriggio a Torino. Andrà a giocare proprio per queste ragioni e proprio perché si trova in una condizione di forma eccellente, andrà a giocare questa partita con le sue armi, che sono armi importanti. Penso che nella Juventus si rivedrà Pirlo, perché visto quello che è successo in Coppa, si sono create le condizioni, non fatemi dire politiche, ma tanto per intenderci, per il ritorno in squadra di Pirlo. Può essere che si veda Morata, che sta scalpitando, che ieri è entrato troppo in ritardo. Però non credo che giocheranno in maschera, Marco. No, ed in funzione proprio di questo ritardo volevo segnalare appunto che Allegri, secondo me, quello che dice è vero. Ha tentato di vincerla a suo modo. L'Atletico è una squadra scorbutica, lo sappiamo. Ma sinceramente tardivi i cambi, insomma. Era chiaro che a quel punto, a quel minutaggio della partita, il pareggio sarebbe stato anche giusto. Però non è stata punita la Juventus come squadra dei giocatori nel campo, è stato forse probabilmente punito proprio Allegri per questa sua tardività. Cosa ne pensa lei? Sul fatto che i cambi di Allegri siano stati tardivi non ci piove, perché Morata poteva essere messo prima, però è stato l'atteggiamento complessivo della Juventus, quasi direi il linguaggio del corpo della Juventus e anche la disposizione tattica della Juventus a comunque a dare un qualche punto di forza ad un Atletico Madrid che non mi ha fatto alcun tipo di impressione ieri sera. Un Atletico Madrid che in questo momento non è certamente la sua versione migliore, un Atletico Madrid che sta ancora studiando, che si sta ancora ricostruendo dopo aver perso molti giocatori importanti. È chiaro che se tu vai lì e gli fai capire che sei lì per provare a vincere la partita, beh, magari succede qualcosa di diverso. Forse non è nemmeno, guardi, estremizzando, una questione di interpreti, di quelli che hanno giocato, una questione di atteggiamento, perché la Juventus non è andata in campo a Madrid con il linguaggio del corpo di chi va lì e dice: ok, adesso sono qui perché ho l'obiettivo di sbatterti fuori dalla Champions League. È andata con un altro tipo di mentalità, secondo me. Roberto Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Io invece volevo mettere un appunto sul discorso della quella richiesta alle società di un pagamento per garantire l'ordine pubblico. Io sono perfettamente d'accordo e le chiedo a lei e al suo collega che ha parlato prima in quali altri sport in Italia lei vede uno spiegamento di forze uguale a quello del calcio. Vabbè, ma è una questione di numeri, Roberto. Benissimo, perfetto, che paghino. Ho un messaggio: la sicurezza nelle manifestazioni sindacali chi le paga? Ah, guardi, se per quanto vi riguarda sfonda una porta aperta, facciamo pagare anche quelli. Ah, va bene, allora facciamo pagare mettiamo una tassa su tutte le attività in cui c'è aggregazione, in cui si muovono comunque decine, centinaia, qualche volta migliaia o decine di migliaia di persone. Se lei dice allora ognuno si paghi il suo servizio d'ordine, allora non c'è punto del contendere. Mi perdoni, tanti vanno a vedere una gara di motociclismo, io non l'ho mai visto, io sono un motociclista, ho corso in moto per tanti anni, mai visto uno spiegamento di forze lontanamente paragonabile a una partita di Serie B. Eppure gente a vedere spettacoli come il Fast Cross di Orsago Sepio dei grandissimi bei tempi, lo stesso Fast Cross di Genova, gare di campionato mondiale dove ci sono decine di migliaia di persone che vanno a vederlo, non c'è bisogno di questo tipo di spiegamento di forza. Il calcio purtroppo secondo me porta con sé delle problematiche, porta con sé dei fattori di tensione che non sono assimilabili a quelle di una gara del moto mondiale o di un concerto, questo sì. Però, torno a ripetere, un provvedimento di questo tipo non risolverebbe il problema e a me, in questo particolare momento politico e sociale, così puzza un po' di demagogia, puzza un po' di demagogico, quindi è semplicemente per questo che ne stiamo discutendo. È chiaro che il calcio è un problema di ordine pubblico, ma è un problema di ordine pubblico nella misura in cui si muovono tutte le persone che si muovono ogni domenica. E torno a ripetere che non mi stanco mai di dirlo. Oggi, magari è un'opinione impopolare, magari pensiamo ai fatti della Coppa Italia recente, di Roma, eccetera. È un'opinione popolare, però oggi intorno al calcio succede molto meno di quanto non capitasse purtroppo negli anni 70, 80, 90. Discorso molto lungo, oggi abbiamo finito, se volete ci torniamo sopra, tanto domani siamo a Genova, tra l'altro, veniteci a trovare lì. Tutti convocati a Genova alle 14. Franco Piantanini dal nostro autore, Roberto Scalzetti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Ciao a tutti. Io sono le cose, le faccio, volo basso e schivo il sasso. Fissi con attenzione Bobby Jones. Quello che fa adesso è un capolavoro. Guardi come prova lo swing. Sembra quasi che stia cercando qualcosa. Poi lo trova. Fa in modo di mettersi in contatto con se stesso. Vedi quella bandiera? È un bel drago da sconfiggere. Ma se lo guardi con occhi gentili, vedrai il punto in cui le maree e le stagioni e il roteare della terra, tutto si incontra. E tutto ciò che è diventa uno. Tu devi cercare quel posto con il tuo cuore. Tutti convocati.